Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e nuovamente con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi andiamo a Padova, nel Padovano, perché parliamo insomma di dati statistici rilevati dall'Adico e non solo. Abbiamo problemi con la liquidità di denaro, no? Sì, come detto Francesco, ogni tanto l'Adico tende sempre a focalizzarsi su una provincia rispetto ad altre, ma soprattutto anche fare delle comparazioni di dati rispetto ai primi mesi del 2014, e questa volta abbiamo voluto concentrarci proprio su Padova, perché è emerso come tra tutta la tipologia dei casi trattati nel primo quadrimestre del 2015 ha spiccato quest'anno come novità i problemi che si riconducono a banche e finanziarie. Dobbiamo dire un caso su 10, non sono i casi principali, però è una new entry assoluta. Vuol dire che questa crisi, che insomma è iniziata nel 2008 e che insomma adesso in questo momento ci troviamo un pochino nell'occhio del ciclone, al di là di quelle che sono le promesse elettorali che stiamo ascoltando in questi giorni, dobbiamo dire che il problema delle banche e delle finanziarie sono problemi molto pesanti. Cosa possiamo dire allora? Che è meglio non chiedere i soldi in prestito? Beh, questo se si potrebbe evitare sarebbe sempre una bella cosa. Purtroppo scopriamo che le persone hanno problemi innanzitutto con mutui, soprattutto quelli che hanno sottoscritto all'inizio quando magari non c'era crisi o si aveva un lavoro, e adesso sono nella condizione di non uscire più a pagare. Però ci sono anche molti problemi con accesso ai crediti e finanziarie per quanto riguarda anche acquisti di beni di consumo, di cui le persone anni fa hanno sottoscritto o continuano a farlo, e poi scoprono magari come queste finanziarie, al di là di quella che è una rata di ingresso, poi promettono, ma a conti fatti applicano ancora dei tassi di interesse molto molto elevati. E poi c'è tutta quella parte dedicata alle società di recupero a crediti, di cui normalmente i consumatori si trova a essere sempre più frequentemente alle prese, e di cui si rivolgono, come detto, al nostro sportello debiti e crediti, proprio perché anche il problema delle finanziarie, il modo con cui questi si rivolgono ai cittadini, certamente a volte possono risultare poco ortodossi. Ecco, e pensare che l'Euribor a 3 mesi segna negativo addirittura, quindi dovremmo pagare veramente poco in queste cose, nel farsi prestare i soldi, ma così ahimè non è. Io volevo chiederti, so che le diatribe a livello finanziario sono diverse a seconda della provincia, no? A Padova i casi sono maggiori, un po' meno a Venezia e ancora meno a Treviso, quindi c'è qualcuno che sta meglio? Sta meglio, oppure nei periodi migliori ha saputo essere più cauto, più prudente rispetto magari a Padova. Però ecco, voglio dire, parliamo comunque sempre un caso su 10, perché poi da quella che è un'indagine, che è stata un'interrogazione un po' che abbiamo fatto, e anche quello che è stato l'attività che i nostri sportelli hanno gestito in questi mesi, abbiamo notato come alla fine il problema delle bollette, per esempio dell'energia elettrica e del gas, comunque vanno sempre da parte del Leone, e parliamo del 27,8 casi complessivi trattati nella provincia. Poi abbiamo le utenze telefoniche, internet, il 16%, e poi abbiamo il problema dei condomini, e qui abbiamo uno sportello dedicato, Sfratti Condomini, che è uno sportello che sta lavorando molto, e questo fa notare come le problematiche legate anche alla vita in condominio stanno assumendo un connotato sempre più rilevante, tanto di quelli che sono i casi che trattiamo. E come ultimo posto abbiamo le finanziarie. In mezzo a tutto questo abbiamo altri casi, come per esempio il ritiro della patente, l'acquisto di prodotti difettati, acquisti tramite internet. Abbiamo di separazione, perché adesso si sta parlando molto di separazione consensuale, errori del CAF, persone le prese con Equitalia, addirittura gente che ci contattano per redigere testamenti, per cui ne abbiamo veramente di tutti i colori. Quindi molti problemi che toccano l'Adico e che l'Adico in qualche modo cerca di risolvere. Ricordiamo che c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it e quindi conviene attraverso il sito poi trovare i numeri di telefono e quant'altro per richiedere un eventuale aiuto proprio all'Adico. Io ringrazio Carlo Garofolini, presidente. L'appuntamento con te, Carlo, è fra un paio di giorni. Sì, oltretutto Francesco, approfitto per dire che i consumatori nei prossimi giorni potranno, per chi ha uno smartphone o un tablet, navigare sul nuovo sito adatto alle versioni mobili, per cui per rendere più fluido i nostri servizi e anche più adeguato alle esigenze, insomma, che oggi ci richiedono di avere. Sempre più in rete quindi con l'Adico. Sì. Saluto tutti e ti ringrazio. Grazie, grazie Carlo, alla prossima. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.